Quarta ed ultima parte di Rock Legends, continuiamo ad ascoltare i brani del disco dei Trick or Treat dal titolo Tin Soldiers. Come si chiamava questa canzone? Questa era il title track del disco Tin Soldiers. Dopo il disco, quali impegni attendono la vostra band per il futuro? So che c'è in programmazione un bel tour europeo con nomi storici del metal internazionale. Finalmente, dopo 10 anni che ci spacchiamo la schiena, un po' di soddisfazione è arrivata. La gavetta ci vuole, insomma. La gavetta ci vuole, sì, sì. Sì, sì. E chi lo annuncia? Io o te? Tu. Io. Faremo un tour europeo con gli Halloween e Stato Varius. Non ci credo. Due grandi nomi, insomma. Lo stai dicendo? Sì, sì. Però è un sogno anche per voi, insomma, dopo tanto per noi tempo. È il sogno di una vita. Tra l'altro, cioè, insieme sia Halloween e Stato Varius, proprio non potevamo aspettarci di meglio. Ora ascoltiamo quale canzone. Mi sembra Final Destination. Mi sembra di sì. Sì, sì, sì. Vai. We'll be right back. Il tempo scorre inesorabile, noi ragazzi siamo in chiusura di puntata, vi ricordo i contatti per le vostre segnalazioni, scrivete all'indirizzo email jeanluc76m@yahoo.it. Ricordo il sito www.radiorcs.it per info su Radio RCS e su Rock Legends, oltre che la possibilità di ascoltare la nostra radio in streaming attraverso i vari player. Un grazie ai Trick or Treat per la partecipazione, un buona fortuna per il tour europeo, un auguro di ritorno in futuro per la presentazione del nuovo album. La parola a voi per i contatti web ed email per info sul vostro disco ed un calendario di live nel nostro paese. Allora, visitate il sito www.trickortreatband.com, sito MySpace www.myspace.com/trickortreatband. Siamo anche su Facebook, puoi dire che i siti sono finiti. Insomma, sì. Se andate su Google, scrivete Trick or Treat Metal o Band, vi fuori di sicuro il nostro sito. Esatto. Come band live adesso in Italia abbiamo al Dark Angel. Dark Angel. A Cantù, il 12 di novembre. Bravo. Poi abbiamo 27 novembre. 27 novembre assieme agli Elven King che presentano il loro nuovo disco. A Pordenone. Poi dopo partirà il nostro tour con gli Halloween e Satovarius, che saremo in Italia a gennaio, il 18 gennaio a Milano, all'Alcatraz, il 19 all'Atlantico di Roma. Poi dopo si vedrà, dopo ancora, intanto stiamo preparando per il tour, quindi i dati italiani ce ne sono poche, a parte quelle lì, che bastano. Forse il media c'era anche, ma no, ma chi se ne frega, no non so, non si viene. Brano per chiudere questa puntata. Chiudo questa puntata, mi è scelto l'altro duetto che fa il nostro cantante Alessandro, assieme a stavolta Michele Luppi, un brano dalle influenze hard rock, si chiama Take Your Chance. Jean-Luc e Trick or Treat vi salutano, noi ci risentiamo come sempre venerdì prossimo, quando avremo in studio la formazione veronese dei Polno Ponches, che ci presenterà il disco di debutto Shooting Stars and Marshmallow. Ciao! Ciao! Ciao!